Flop di Trump a Tulsa, Oklahoma. Notte di follia a Stoccarda. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Downtown Tulsa is getting back to normal after President Trump's whirlwind visit, but the crowd for this rally was noticeably smaller. The head of police in the German city of Stuttgart says he has never seen anything like it in some 50 years on the job. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, una nuova puntata, una nuova settimana in compagnia di Nessun Luogo Lontano, il che vuol dire ogni giorno andare a ruotare il mappamondo per raccontarvi i fatti e le notizie più eclatanti che arrivano dalle quattro angoli del globo. La squadra di Nessun Luogo, Antonio Tagli, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Quest'oggi Danilo Di Trani che ci assiste e in regia ritroviamo Roberta Frisani. 349-238-6666, sms, whatsapp, ma anche facebook e twitter, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Nessun Luogo 24 rispettivamente. Poi se volete cinguettare al mio account mi trovate come Giampaz. Due le notizie che vi sottoponiamo in questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano. La prima pagina sarà dedicata a quello che è stato il primo appuntamento dal vivo di Donald Trump dopo l'epidemia di coronavirus. Diciamo dopo, ma in realtà durante l'epidemia di coronavirus. Si è presentato a Tulsa in Oklahoma, ma uno stadio che doveva contenere circa 17.000 persone ne ha ospitate 6.500 a seconda delle fonti, benché la campagna di Trump, lo staff della campagna di Trump abbia detto no, in realtà erano quasi il doppio. Detto ciò, faremo un punto su quello che è il progressivo avvicinamento alle fatidiche pagine che vanno scritte in vista di novembre, l'elezione del presidente statunitense. E poi a Stoccarda, per scene incredibili di guerriglia, il capo della polizia della cittadina ha detto che in quasi 50 anni di servizio non avevo mai visto scene simili, guerriglia urbana a tutti gli effetti. Vi daremo dettagli anche su quello che è accaduto in Germania. Non prima però, Roberta, di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta velocemente in Libia, perché questo è stato un weekend piuttosto intenso dal punto di vista delle notizie internazionali. Il presidente egiziano, giusto sabato, stiamo parlando del generale Abdel Fattah al-Sisi, ha avvertito che se le forze del governo di Tripoli, guidate dal presidente del governo di Tripoli, Fayez al-Sarraj, dovessero tentare di entrare a Sirte o addirittura oltrepassare Sirte, l'Egitto interverrà direttamente nel conflitto in Libia per proteggere la propria sicurezza nazionale. Al-Sisi ha fatto anche un passo in più, ha detto sia Sirte che al-Jufra, che a sud, rappresentano, ha detto, una linea rossa, tutta la Libia è una linea rossa, ha invece comandato di rimando il governo di accordo nazionale. Qualunque sia la disputa tra libici, non permetteremo che il nostro popolo venga insultato o minacciato. Scambio, insomma, di accuse e dibattute al vetriolo, tanto che il governo di Sarraj ha detto attenzione che questa è una vera e propria dichiarazione di guerra. Queste dichiarazioni arrivano alla vigilia di una riunione che verrà effettuata virtualmente, insomma utilizzando la rete, dei ministri degli esteri della Lega Araba proprio sulla Libia. Però il governo di Sarraj ha rifiutato di partecipare ed è facilmente intuibile il perché. Sia Arabia Saudita che Emirati Arabi sorreggono e supportano infatti il governo del sedicente generale Khalifa Haftar. Non è un caso che lo stesso GNA, o GNA se preferite, che è l'acronimo che indica il governo di Tripoli, ha detto siamo aperti a tutte le mediazioni imparziali sotto l'egida delle Nazioni Unite. Stando sempre in Libia e nello specchio d'acqua antistante nel Mediterraneo meridionale, avete sentito dal GR le notizie che arrivano anche di naufragi. In tema, il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas, in conferenza stampa a Villa Madama, dopo un incontro con il ministro Di Maio, ha detto è stato importante fare visita al quartier generale della missione Irini, perché Irini è un esempio di incisività a livello europeo. Abbiamo dato un segnale forte. Sapete che stiamo raccontando in queste settimane quello che è il ruolo della missione e anche successi o insuccessi proprio della missione Irini. Abbiamo anche ospitato l'ammiraglio che ne è a capo, ma pochi giorni fa vi abbiamo dovuto dare conto di una sconfitta quantomeno sulla carta, perché un cargo proveniente dalla Turchia è riuscito a portare ragionevolmente un grosso carico di carri armati, di mezzi, di uomini proprio a Misurata in vista dell'offensiva che il governo di Tripoli vuole effettuare sulla città di Sirte. 349-238-6666, tra pochissimo vi darò conto dei messaggi che stanno arrivando qui in redazione, li ho sott'occhio, non prima però di avervi raccontato cosa sta accadendo in Somalia. Raramente ci occupiamo di questo importante, tuttavia importante paese del Corno d'Africa. Quando lo facciamo, solitamente vi restituiamo quelli che sono scontri fra le milizie governative, fra i soldati governativi e le milizie di Al-Shabaab, questa formazione islamista che da anni tiene sotto scacco il fragile governo di Mogadiscio. Ebbene, questa volta erano proprio i soldati, è successo nel fine settimana, che sono scesi in strada per manifestare e protestare contro il mancato pagamento degli stipendi da parte del governo, pensate in alcuni casi un anno e mezzo di mancati pagamenti. E se riflettiamo sul fatto che i soldati somali debbono combattere in prima linea anche all'interno della stessa capitale Mogadiscio quotidianamente contro Al-Shabaab, da ciò si evince non soltanto la fragilità dello Stato somalo in termini istituzionali e finanziari, ma anche l'estrema difficoltà alla quale sono sottoposti durante il lavoro appunto i soldati somali. Questa volta, dopo episodi simili che si sono verificati più e più volte, a protestare non i soldati della 27esima divisione, arrivavano dalla regione di Iran. E infine in Serbia, perché si è votato in questo weekend, il partito conservatore del presidente Aleksandar Vučić, da 10 anni al potere, ha vinto le parlamentari. I primi risultati elettorali danno in testa il Partito del Progresso Serbo, 61,4% dei voti. Al momento solo altri due partiti hanno superato una soglia di sbarramento che nell'importante paese dei Balcani è al 3%, e sono il Partito Socialista, che raggiunge un 10%, e il Movimento SPAS dell'ex campione di pallanuoto Sapic, che ha ottenuto il 3,7%. Affluenza al voto bassa, pensate, meno del 50% degli aventi diritti si è recato alle urne, con un ulteriore calo rispetto al 2016, precedente tornata elettorale, del 5%. Vučić ha dichiarato: sono in politica da molto tempo, non ho mai vissuto un momento come questo, abbiamo ottenuto un grande consenso da parte della popolazione, il più largo nella storia della Serbia. Se è vero che il consenso è stato alto, è anche vero che, nonostante una buona gestione della crisi da coronavirus e nonostante buoni segnali dell'economia, le sfide di fronte al governo di Vučić, ma anche al suo partito, sono tante. Su tutti ce n'è una che si chiama Kosovo, sentite. Dunque, con 189 mandati parlamentari su 250 seggi, cui si aggiungeranno i 30 seggi socialisti, Aleksandar Vučić si prepara ad affrontare la sfida più importante e per tanti versi definitiva della sua vita politica, il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Il 27 giugno Vučić sarà alla Casa Bianca per incontrare il presidente kosovaro Hashim Thaçi sotto gli auspici dell'amministrazione Trump, che di fatto ha scippato l'Unione Europea del dossier Kosovo. Domani Vučić sarà a Mosca da Putin e poi a Bruxelles per preparare l'appuntamento di Washington. Non si sa se si arriverà a un riconoscimento già implicito in qualche modo di qui a 5 giorni. Di certo la forza politica di Vučić serve a concludere un accordo che oramai si aspetta da oltre 20 anni. E la stessa Unione Europea è alla fine disposta a chiudere 2 occhi sugli abusi che questo strapotere politico inevitabilmente crea, per chiudere definitivamente gli strascichi degli anni 90. Non vi è dubbio che l'amministrazione Trump metterà sul piatto importanti investimenti per spingere Serbia e Kosovo a un accordo. La Serbia ambisce a trasformare la sua economia e a diventare un punto di riferimento globale dell'information technology e dell'intelligenza artificiale, e chiederà investimenti soprattutto in quel campo. Con il riconoscimento internazionale, da parte sua, il Kosovo potrà anche migliorare la sua capacità di attrazione di nuovi investimenti. Dunque, per concludere, se il riconoscimento del Kosovo porterà alla stabilizzazione e alla crescita del benessere dei Balcani occidentali, oppure a una nuova spirale di proteste nazionaliste e fuga degli investitori, alla fine è il bivio cruciale dei prossimi anni, non solo per Aleksandar Vučić, ma per l'intero continente. Avete sentito il lucido, efficace commento di Biagio Carrano, che è fondatore di Serbian Monitor, che è un autorevole osservatorio proprio su tutto ciò che accade nell'importantissimo paese dei Balcani, importantissimo non soltanto per quella regione, ma l'avete sentito dalle parole dello stesso Carrano, per l'intera Europa, per l'intera area. Questi sono i nostri dossier internazionali, spunti, fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo e che diventeranno molto spesso, molto ragionevolmente in futuro, approfondimenti di nessun luogo lontano. Detto ciò, Roberta Fisani, andiamo dritti dritti negli Stati Uniti. Taking back our country. We are returning the power to you, the American people. La voce di Donald Trump, come al solito, piena di vigore, naturalmente. Quello che invece contrasta e ha destato stupore è stata quell'immagine dello stesso Donald Trump che atterrava col suo elicottero vicino alla Casa Bianca, foto riprese dalle CNN, particolarmente sconsolato nonostante il pollice alzato. Che cosa è accaduto questo weekend? Si è consumata quello che molti giornali hanno definito un flop, ma la prima vera e propria sconfitta sul campo dal vivo, perché il raduno a Tulsa in Oklahoma per il rilancio della sua campagna elettorale doveva, nelle intenzioni di Trump, accogliere addirittura 1 milione di persone tra spazio interno, spazio esterno, 17.000 il luogo deputato a accogliere, questa è la capienza, 6.500, 6.100, 6.200 a seconda delle fonti, invece il reale numero di persone che si è presentato. Marco Valsani, a firma del Sole 24 Ore da New York. Buongiorno Marco, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora Marco, sei d'accordo nel definirlo un flop o, come dire, complice il coronavirus, complice un po' di paura e complice, tra pochissimo lo spiegheremo anche, forse un'ottima e ben architettata campagna anti-Trump su TikTok, si è trattato di un fisiologico scivolone, mettiamolo così, alla ripresa di una campagna fisica, ecco, fino adesso è stata virtuale praticamente. Sì, sì, sicuramente è stata una delusione che come ricordavi, si poteva leggere anche sul volto del presidente, nonostante, diciamo, i gesti così esterni di ottimismo, diciamo, no? che ha fatto. I numeri sono poi quelli che danno le dimensioni un po' di questa delusione. Come ricordavi, appunto, ufficialmente poco più di 6.000 persone e le attese, diciamo, a parte, diciamo, le prenotazioni rivendicate di oltre 1 milione di biglietti gratuiti, ma anche comunque le stesse autorità locali, sulla base delle indicazioni della Casa Bianca, si aspettavano forse 100.000 persone comunque in arrivo a Tulsa, no, per l'evento, sì, diciamo, di rilancio formale della corsa alla rielezione da parte di Trump, in 100.000 persone che non si sono appunto materializzate. Quindi un segno che a questo punto preoccupa anche informalmente, diciamo, dietro le quinte, i più stretti collaboratori del presidente, per quello che può significare appunto per le sue chance di rielezione a novembre. La voce di Marco Valsania da New York, giornalista del Sole 24 Ore, che ha seguito come noi quello che è accaduto in questo intensissimo weekend, ascoltatrici e ascoltatori, anche per l'amministrazione Trump, per l'amministrazione statunitense. Perché, fra l'altro, citavi Marco i collaboratori del presidente, 6 membri del suo staff sarebbero risultati positivi al Covid. Come dire, che nonostante le rassicurazioni e anche un certo spregio del presidente rispetto alle norme sanitarie, aveva pensato, consigliato di non mettere la mascherina nel raduno di Tulsa, aveva detto non c'è bisogno di distanziamento. Probabilmente anche la paura e il timore degli statunitensi ha fatto sì che quell'anfiteatro, quel palazzetto fosse semivuoto. Dicevo, ore particolarmente, sì, intense per l'amministrazione statunitense anche sul fronte giudiziario, perdonatemi. La settimana scorsa raccontavamo di questo libro bomba di John Bolton che dovrebbe uscire tra pochissimo, ma leggevo che in rete sono uscite delle versioni evidentemente che sono riuscite a craccare, no, in qualche modo alcuni hacker, ma Trump non è riuscito a bloccare l'uscita di questo libro, Marco. Sì, anche qui diciamo così che è un altro dei segnali diciamo, preoccupanti per l'amministrazione, l'uscita diciamo, del libro di Bolton. A questo punto diciamo, l'uscita ufficiale in libreria al pubblico è prevista per domani, ma di fatto diciamo, le copie già circolavano, erano state ampiamente recensite, ampi stralci pubblicati da tutti i media, vecchi e nuovi, e quindi il messaggio di Bolton, che ha anche dato un'intervista nel corso del weekend ampia alle reti televisive americane, in cui di fatto ha definito Trump un pericolo per la Repubblica, a questo punto, ecco, hanno ormai, diciamo così, ferito, diciamo, l'immagine, ulteriormente l'immagine del presidente. Trump aveva cercato di bloccare in tribunale formalmente così l'uscita del libro, quasi come un messaggio di appunto della propria, diciamo, comunque della propria capacità ancora di controllare la situazione, la crisi, ma non è riuscito. Il giudice, come riteneva la maggior parte degli esperti legali, non è intervenuto per bloccare il libro difeso dalla libertà d'espressione, anche se ha lasciato aperta la possibilità che il governo riesca a rifarsi in termini economici contro Bolton e diciamo quindi che possa sequestrare di fatto i proventi del sì. libro e perseguirlo, diciamo, anche per violazione, diciamo, di impegni contrattuali, di violazione di segreti di Stato. Peraltro, ecco, però il libro è rimasto. Ecco, e peraltro si paleserebbe l'incubo, credo, di qualsiasi penna, di qualsiasi scrittore o neo scrittore, come nel caso di John Bolton. Pensate, un anticipo milionario, 2 milioni di dollari si sussurra per questo libro, sicuramente una pubblicità incredibile, per cui andrà a ruba nelle librerie, e poi pensate tutti gli introiti, doverli restituire per le spese legali, ripianare questi presunti attacchi a quella che è la sicurezza dello Stato. Questo è un pezzo della storia. Un altro pezzo invece, e alcuni ascoltatori ne stanno commentando, ne stanno scrivendo al 349-238-6666, riguarda questa campagna che è partita soprattutto da TikTok. Secondo alcune ricostruzioni, una nonnina, che poi nonnina 51enne, una giovane nonna americana, che avrebbe lanciato un appello nel boicottare questo impegno di Donald Trump dal vivo in Oklahoma, a Tulsa appunto. Cosa avrebbero fatto? Avrebbero sostanzialmente creato una serie di account, fatti poi cancellare, con numeri di telefono attivati e poi disattivati, per prenotare un posto all'interno del palazzetto dello sport, salvo poi evaporare. In realtà alcuni giornali, Marco, hanno ridimensionato anche questo aspetto, dicendo che alla fine l'ingresso era libero, si sarebbe andati a riempimento, no, di questo spazio, c'era anche lo spazio esterno, quindi forse rimane di questa storia del TikTok un po' di colore. Ti faccio rispondere, Marco, ma vi do conto di un ascoltatore che dice, a proposito di questa vicenda, in altri casi sarebbe stata etichettata come intralcio alla regolare vita democratica di un paese, siccome però c'è di mezzo Trump, tutto va bene, tutto se lascia passare senza alcun problema. Così un ascoltatore che si scaglia contro questa campagna dei troll contro Donald Trump. Marco, che idea ti sei fatto di questa strana vicenda tra il virtuale e il fisico? Sì, diciamo, strana probabilmente è l'espressione, diciamo, giusta, sì. Ma sicuramente, diciamo, per leggere in termini, diciamo, politici, anche questo un segnale un po' dei passi falsi dell'amministrazione, anche perché ricordiamo che è un'amministrazione, una campagna, quella di Trump, che ha rivendicato e ha ragione, diciamo, la propria capacità di utilizzare i social media, secondo i critici di manipolarli e di abusarli anche, ma comunque, diciamo, di usarli in maniera efficace, proprio come megafono, diciamo, del proprio messaggio, delle proprie istanze, della propria campagna. Ecco, in questo caso questa diciamo così mobilitazione un po' sotto traccia, come ricordavi, di giovani, giovanissimi, e non solo, appunto, come ricordavi, su TikTok, Twitter, eccetera, ha comunque messo un ulteriore così creato un ulteriore ostacolo a una campagna già in difficoltà. Ecco, al di là che poi sia stato diciamo significativo l'impatto di queste diciamo prenotazioni nello scoraggiare comunque una parte di potenziali partecipanti a recarsi in diciamo sul luogo, a recarsi a Tulsa per l'evento, diciamo, al di là di questo resta il fatto di fondo che ha comunque contribuito a erodere l'immagine così un po' invincibile, fra virgolette, di Trump di no, derivata, sì, dal 2016, sì. Un'immagine che rimane, diciamo, ferita da problemi più, diciamo, profondi, che sono appunto il calo nei sondaggi, che sono comunque la preoccupazione per il coronavirus, che è stata una delle, comunque, degli elementi che ha tenuto lontano la gente da Tulsa, nonostante, diciamo, le rassicurazioni dell'amministrazione. Ecco, quindi, diciamo, nell'insieme, così una spirale preoccupante per il presidente. Sì, intanto arrivano un po' di messaggi. Marco Valsani, lo ricordo, ci parla da New York, giornalista del Sole 24 Ore. Dicevano, arrivano messaggi al 349-238-6666 da Trampiani di Ferro, tra i nostri ascoltatori. Evidentemente qualcuno, Donato, scrive: mai una parola positiva per Trump, sempre dato perdente come 4 anni fa, continuate così, esperti di politica. Ma non siamo noi, non stiamo dando sondaggi, i sondaggi li danno i media americani, soprattutto lo fanno in maniera molto frequente, e me lo conferma Marco Valsani, che fra l'altro recentemente proprio sul Sole davi conto di un sondaggio del sito specializzato 538, con Biden lo danno davanti a Trump di 9.2 punti, 9,2 punti, perdonatemi, e la Fox, Fox News, non c'è bisogno di ribadire quanto sia vicino ai repubblicani, da un Biden in testa di 12 punti rispetto agli 8 del mese scorso. Quindi cerchiamo di darvi conto di quelle che sono invece i sentori, il polso proprio dell'elettorato americano. Ecco, Marco Valsani, alcuni ascoltatori dicono: guardate che è inutile che gioite e gongolate, non capisco quale atteggiamento ci addossino. Ma detto ciò, è anche vero che qualche anno fa questi sondaggi furono totalmente poi sconfessati. Quanto la società americana crede nel sondaggio? Quanto si muove la politica rispetto ai sondaggi dopo i tradimenti del 2016? Ma sicuramente i sondaggi restano nella bufera in termini di attendibilità e di capacità, diciamo, di riflettere davvero gli umori profondi dell'opinione pubblica in questo nel clima, diciamo, degli ultimi anni. Quindi lungi da noi voler ridare, diciamo, un senso, sì, un'importanza eccessiva, sì, ma sicuramente sono un sintomo e diciamo un sintomo significativo che diciamo la cui importanza in realtà emerge anche dalle preoccupazioni, diciamo, dietro le quinte della campagna Trump, dei collaboratori più stretti, diciamo, al di là dell'atteggiamento così aggressivo ufficiale. I segnali, diciamo, di spostamento dell'opinione pubblica ci sono, le difficoltà di leadership del presidente sono oggettive, diciamo così, e sono appunto quelle legate alla sua, diciamo, alla difficoltà di leadership nella crisi del coronavirus. Ancora di recente lui ha continuato, e anche a Tulsa, ha continuato a minimizzare la crisi, sì, mentre i suoi stessi esperti di salute pubblica continuano a dire che invece il virus rimane un problema grosso e potrebbe ancora crescere. Il suo stesso consigliere per l'attività manifatturiera e commerciale, Peter Navarro, ha detto che comunque il governo si sta riempiendo nuovamente così la riserva nazionale sanitaria, diciamo, di attrezzature e farmaci, proprio per la paura che comunque ci siano ulteriori recrudescenze del virus. Quindi questo, la crisi economica che resta, quei posti di lavoro, 20 milioni ancora comunque al momento assenti e mancanti all'appello, sì, la recessione, sì, che comunque c'è, e comunque, diciamo, un presidente scollegato dalla sensibilità razziale, che in questo momento è molto forte. La protesta, diciamo, sociale per una maggiore equità, per una riforma della polizia, per diritti civili ampliati, ecco, è un'istanza che è diventata molto forte, e non solo, diciamo, nella comunità afroamericana, ma si è ampliata, ecco. L'incapacità di Trump di rispondere a queste sfide è quello che in questo momento crea difficoltà. Certo. E gli viene rimproverato, diciamo, Marco, mi permetto di interromperti, non soltanto dalla comunità afroamericana statunitense, ma una fetta degli Stati Uniti e addirittura persino movimenti che arrivano nel Regno Unito. Proprio pochi minuti fa la CNN apriva con uno speciale su come la questione Black Lives Matter fosse sentita anche in Regno Unito, segno che gli Stati Uniti sono un motore di qualcosa e il presidente forse sta sottovalutando questo aspetto. Mi dà ragione in questo senso. Intanto ringrazio Marco Valsani, giornalista del Sole 24 Ore da New York. Grazie Marco, buona giornata e buon lavoro, alla prossima. Dicevo, ci dà ragione in questo senso Alessandro, un ascoltatore, che dice: i gesti di Trump seguiti alla tragedia di Floyd non sono gravissimi, sono la semplice esecuzione di una carentissima visione suprematista della vita, che ne rendono l'evidente immoralità incompatibile con la carica che ricopre. Questo messaggio fa eco ai tanti invece messaggi che in maniera molto asettica dicono: tanto vincerà anche le prossime elezioni. Borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano abbiamo raccontato quello che è accaduto a Tulsa in Oklahoma. L'inizio della ripresa della campagna elettorale dal vivo di Donald Trump si è rivelato un fiasco, ben lontane le cifre degli astanti rispetto a quelle che la macchina della propaganda del presidente statunitense ambiva ad avere nella cittadina dell'Oklahoma, complice forse anche una campagna di troll, come si dice in slang, in salsa di internet, che ha efficacemente, non si sa bene quanto, comunque ha in parte contribuito a far disertare questa occasione fisica, lo ripeto, che era la prima volta dall'inizio della pandemia. C'è tempo per novembre, c'è tempo per andare a sovvertire i sondaggi. Per il momento Joe Biden è dato in testa, un Joe Biden che, come sottolineano alcuni ascoltatori, in realtà, come dire, è una figura abbastanza grigia, non è che si stia facendo sentire più di tanto. Un po' di messaggi al 349-238-6666 prima di voltare pagina, cambiare continente, andare ad riferirvi di quello che è accaduto nella notte tra sabato e domenica in Germania, a Stoccarda. Qualcuno torna sul caso Bolton, l'uscita di questo libro che dovrebbe rivelare anche segreti di Stato, sussurri e informazioni molto preziose che sono state dette nella sala ovale. Se Bolton, scrive un ascoltatore, rivelerà informazioni coperte da segreto di Stato, è giusto che venga perseguito legalmente. Poi dite continuamente che TikTok potrebbe essere uno strumento della Cina, ma questa volta non sorge nessun dubbio. Basterebbe modificare qualche algoritmo per dare più visibilità a un tema piuttosto che a un altro. Non sono trumpiano, chiude questo ascoltatore, ma semplicemente critico qualcun altro su Facebook. Certo che è strano tutta questa gente che prima entra nello staff di Trump e poi ci sputa sopra per farsi pubblicità, e conclude con un ma col punto esclamativo, come dire, inspiegabile questa cosa. D'altra parte però, gentile ascoltatore, aggiungo un tassello. È vero che John Bolton è entrato nello staff di Trump, era sul terzo consigliere per la sicurezza nazionale, ma è stato lo stesso Donald Trump a licenziarlo. Poi che vi sia un spietato opportunismo da parte di Bolton lo denuncia l'anticipo di questo libro. L'editore gli ha dato, se sono vere le indiscrezioni, $2 milioni, e diciamo che per uno scrittore, per quanto alla sua prima opera, non è affatto male. Gli altri messaggi al 349-238-6666 li riprenderemo, perché tanto torneremo a parlare della lunga cavalcata presidenziale in vista di novembre. Adesso Roberta Frisani, andiamo a Stoccarda, Germania. Quella che avete sentito erano i suoni, e i social ne sono ricchi, con video postati su Twitter e su Facebook. Attenzione, non tutti sono veritieri, come spesso accade in questi casi, ma sono riferiti ad altri disordini. Dicevo, sono riferiti e arrivano dal Schlossplatz, che siamo nel centro di Stoccarda. Il tutto sarebbe nato da un controllo della polizia su un 17enne, un controllo antidroga. Da lì la situazione è velocemente, letteralmente esplosa, e gli agenti tedeschi sono trovati a fronteggiare almeno 500 persone che con vandalismi e violenze verso la stessa polizia, almeno 10 gli agenti rimasti feriti, 20 arrestati, hanno condotto una serie di disordini per varie ore appunto nel centro di Stoccarda. Sui social si è letto molto, attenzione, è stato un dissidio tra la comunità turca e quella curda. In realtà, a vedere anche la nazionalità degli arrestati, una metà sono tedeschi, di origine tedesca, gli altri sono di origine turca o curda, ma cittadini tedeschi. Chi, come dire, va a smussare quella che poteva essere una ipotesi di motivazioni etnica, sfondo etnico di questi disordini, è una giornalista, una collega, Rebecca Staudenmayer di Deutsche Welle. L'abbiamo raggiunta pochi minuti fa per farci raccontare meglio che cosa è successo in questo incredibile weekend a Stoccarda. Lo avete sentito anche dai titoli, il capo della polizia ha detto: in 47 anni non ho mai visto scene di guerra civile come queste. E allora vi faccio sentire la voce di Rebecca Staudenmayer. Allora, gli scontri sono scoppiati sabato notte, intorno a mezzanotte, e sono andati avanti fino alle 4 del mattino. Tutto è cominciato quando la polizia ha condotto un controllo per possesso di droga su un giovane, un teenager. Molte persone che si trovavano in centro, in un parco, e gli altri che erano usciti per locali in occasione del sabato sera, si sono presentati a sostegno del ragazzo fermato. A questa prima ondata si sono aggiunte sempre più persone. Secondo le fonti ufficiali delle forze dell'ordine, parliamo di una cifra tra le 400 e le 500 persone che hanno preso parte agli attacchi contro la polizia. Questi attacchi si sono trasformati in disordini per le strade commerciali della città, con danneggiamenti di vetrine, saccheggi e irruzioni nei negozi. La seconda pagina di Nessun Luogo Lontano vi porta a Stoccarda in Germania per un weekend di delirante follia in cui un semplice, rutinario controllo per possesso di sostanze stupefacenti, rutinario nel senso che Stoccarda ci ha abituato in alcuni casi episodi di cronaca di questo tipo, si è trasformato in un esito che nemmeno il più navigato dei poliziotti poteva immaginare. 500 persone che hanno creato disordini, saccheggi e violenze in tutta la città, in particolare nel centro Schlossplatz, appunto, di cui vi ho fatto sentire i suoni. Non sono mancate evidentemente le prese di posizione politiche anche di alto livello. Si è fatto sentire immediatamente il borgomastro Fritz Kuhn, che appartiene al partito dei Verdi, ha detto: sono sconvolto da quanto accaduto, è una triste domenica. Si è fatto sentire anche Sascha Binder, che è un esponente socialdemocratico, dicendo appunto: scene da guerra civile. Mein Herz in Flammen, will ich lieben und 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande, le vostre critiche. Noi facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire com'è la situazione sulle strade italiane e poi continuiamo in questo viaggio, in questo delirante weekend, anzi tranquillo weekend di paura a Stoccarda. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. Ripartiamo dall'Italia e dai prodotti italiani con Drive Forward, nuova gamma Alfa Romeo Giulietta da 179 euro al mese, zero anticipo e zero rate nel 2020. Da gennaio 18 rate da 179 euro, poi 72 rate da 288 euro, TAN 675, TAE GOT 44. Iniziativa valida fino al 30 giugno. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Info su alfaromeo.it. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La seconda pagina di Nessun luogo lontano vi dà conto dei disordini che sono avvenuti in questo weekend a Stoccarda in Germania. Vi ho fatto ascoltare la voce di Rebecca Staudenmayer, giornalista di Deutsche Welle, proprio a Stoccarda, la quale immediatamente dopo l'inizio degli scontri si è recata in piazza, in strada, per cercare di raccogliere voci e testimonianze e capire cosa era successo. Un po' di dettagli ci li racconta e ve li faccio sentire. Questa violenza, tutti questi incidenti hanno colto la città completamente di sorpresa e anche alcuni dei giovani che erano lì e hanno assistito a tutto, ragazzi che ho intervistato di persona, raccontano che sono rimasti completamente scioccati dalla velocità con cui questi disordini sono andati di male in peggio. Molti degli intervistati mi hanno raccontato che sì, c'erano state delle tensioni con la polizia in precedenza, tra gruppi di giovani e forze dell'ordine, e alcuni funzionari di polizia sostengono che l'alcol abbia giocato un ruolo decisivo in tutto quello che è successo e che a un certo punto l'intero scenario sembrava completamente senza regole, una situazione da Far West. Molti mi hanno detto che si sentivano come in un film americano, le regole non si applicavano più. Tutto questo sembra scoppiato dal nulla per molta gente, inclusi molti di quelli che erano lì quella notte. La voce di Rebecca Staudenmayer, giornalista di Deutsche Welle, proprio a Stoccarda, lì dove la notte tra sabato e domenica per alcune ore si sono consumati innumerevoli episodi di violenza. Ripeto il bilancio: 20 persone arrestate, almeno una decina di agenti feriti. In alcuni video che sono girati sui social si sono visti alcuni ragazzi che al grido di Allahu Akbar giravano devastando vetrine, ma in realtà andando a vedere quella che è la profilazione, diciamo, degli arrestati e delle 500 persone che erano in piazza. Secondo le fonti tedesche, almeno una buona metà erano cittadini tedeschi, etnicamente tedeschi, diciamo così, mentre gli altri erano stranieri, turchi e curdi, ma sempre cittadini tedeschi, quindi seconda o terza generazione. Questo per darvi conto anche del dibattito che è nato poi su Twitter, evidentemente ha iniziato a strumentalizzare immediatamente la vicenda. 349-238-6666, un ascoltatore: allora anche i correttissimi e ineccepibili tedeschi hanno qualche problema in casa loro, sarebbe ora di smettere di continuare con i soliti stereotipi vecchi di ogni anno, di anni, ogni paese ha problemi e chi sostiene il contrario mente. Così un ascoltatore. Eppure, se la polizia e le fonti investigative tedesche dicono: attenzione, quella era una nottata di baldoria, dopo tante settimane chiusi più o meno in casa, l'alcol ha sicuramente giocato un ruolo importantissimo, e verrebbe a dire accidenti al ruolo giocato, 500 persone facinorosi che devastano la città. Detto ciò, c'era anche sullo sfondo il problema della droga, perché Stoccarda è in qualche modo un crocevia, le notizie di cronaca ci hanno spesso restituito di arresti o controlli per traffico di stupefacenti. Ci dice se è vera questa ipotesi Rebecca Staudenmayer di Deutsche Welle. Da quello che ho potuto capire, da persone che sono sul campo, ci sono stati alcuni casi in cui la polizia stava indagando su persone accusate per droga. Ma credo che questa vicenda abbia meno a che fare con il tema della droga e sia maggiormente collegata alle tensioni che molti giovani stanno vivendo. In particolare i giovani di colore e i loro rapporti con la polizia. Molti di loro mi hanno detto di essere stanchi di essere indicati come possibili sospetti. Penso che questo abbia più a che fare con una tensione latente, una vera e propria ondata alimentata da fattori diversi che sono entrati in gioco, tra cui la tensione con la polizia, l'alcol, la frustrazione per l'epidemia di coronavirus. La voce della giornalista di Deutsche Welle, Rebecca Staudenmayer, era lì in quella notte durante i disordini proprio per cercare di capire cosa è accaduto, qual è stata la risposta politica. Fra pochissimo vi darò conto della risposta, appunto, della Staudenmayer, giornalista di Deutsche Welle, non prima di avervi dato conto di alcuni messaggi, un paio in particolare, che sostengono che io sia filo islamico senza sostanziare in realtà, e qualcun altro: è certo, i musulmani per lei non hanno mai colpe. Stavo dandovi conto invece di quella che era, a dispetto di una stigmatizzazione che alcuni accanto sui social e strumentalizzazione che alcuni accanto sui social hanno tentato di fare, quella che secondo le autorità e le fonti tedesche era la radiografia su composizione etnica, per così dire, di questa piazza, di queste 500 persone che si sono messe e hanno ingaggiato scontri con la polizia. Detto ciò, è evidente che questo questa weekend di pura follia ha scioccato non soltanto le autorità locali, di cui vi davo conto, ma anche quelle nazionali, tanto che persino la cancelliera tedesca Angela Merkel si è pronunciata, e ci racconta tutto sempre Rebecca Staudenmayer, Deutsche Welle. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha condannato le violenze che si sono verificate, definendole ripugnanti. E pochi minuti fa il ministro dell'interno, Horst Seehofer, ha effettuato una visita in città per ispezionare le auto della polizia danneggiate, per parlare con gli agenti di polizia e con i proprietari dei negozi che sono stati gravemente danneggiati durante le violenze. E questo lancia un messaggio chiaro. Il governo tedesco si schiera dalla parte della polizia e condanna con forza le violenze contro la polizia. La Germania è stato il paese in Europa che qualche anno fa ha accolto più di 1 milione di rifugiati. Ha subito in qualche modo anche la città di Stoccarda questo flusso, è riuscito a gestirli. Insomma, c'è stata una crescente tensione fra la comunità tedesca e quella dei nuovi arrivati, che potrebbe aver spiegato anche i fatti di sabato e domenica. Sentite ancora la giornalista di Deutsche Welle. Molti pensano che quello che sia successo sia frutto di tensioni razziali, ma specialmente le persone con cui ho parlato qui a Stoccarda mi hanno detto che le persone presenti alla festa nel parco la notte scorsa erano di tante nazionalità diverse. Non stiamo parlando di un singolo gruppo al quale si possono attribuire gli scontri. Per la maggior parte erano giovani, ed è questa la caratteristica principale di coloro che hanno preso parte ai disordini. The people who were taking part in the unrest. Ultimo aspetto per restituirvi ancora una volta quella che è la complessità di quello che è accaduto, perché veramente gli analisti, gli osservatori, i giornalisti ancora non sono certi delle reali motivazioni. Ripeto, da un lato arresto antidroga, dall'altro l'abuso di alcol da parte di decine e decine di manifestanti, poi però si sono scagliati contro la polizia, richiamando in qualche modo forse quelle tensioni tra società civile e uniforme che si sono viste negli Stati Uniti. Ma non è che c'era un tentativo in qualche modo di replicare quell'atto di orgoglio della cittadinanza e di frustrazione verso la divisa, l'uniforme e la polizia? Sentite la giornalista di Deutsche Welle. Si è parlato anche di questo aspetto. Qualcuno dei giovani ha dichiarato di aver visto i video delle proteste negli Stati Uniti. Il problema della responsabilità della polizia, il rapporto con le persone di colore e più in generale i problemi di cui si parla in questo periodo sono tutti temi discussi anche in Germania. E questo può essere uno dei fattori che ha fatto precipitare velocemente la situazione. Ma ripeto, ancora una volta, è difficile decretare con esattezza quale sia la ragione principale che ha innescato gli scontri. Obbedisco, Roberta Frisani, che ci dice che il tempo è concluso, non prima di aver ringraziato voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra. L'appuntamento è domani alle 16. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.